si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno, buona giornata ad Alessio Maurizi, ben ritrovati in diretta su Radio 24 con Si può fare, il buongiorno nel weekend di Radio 24. Cominciamo tra poco dando un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi, una velocissima rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8, come sempre. Poi cominceremo con il programma e andremo a caccia, come sempre, di buone pratiche, di cosa si può fare. Partiremo, per esempio, chiedendo anche a voi, ascoltatori, che cosa ne pensate della decisione presa a Corsico, comune alle porte di Milano, dove il sindaco ha chiesto all'azienda che fornisce i pasti nelle scuole elementari della città di non fornire più il pasto ai bambini dei genitori che non hanno pagato la retta. Insomma, il sindaco deve recuperare più di 1 milione di crediti di gente che non paga la mensa, ma ci si domanda se devono finirci in mezzo i bambini. Sicuramente non è bello per un bambino ritrovarsi lì senza col piatto vuoto, ecco, insomma. D'altra parte il sindaco dice probabilmente c'è gente che ci marcia sopra, non soltanto persone che non se lo possono permettere, ma anche chi ci marcia sopra e decide di non pagare. Allora, per recuperare questi crediti, da qui la decisione. Interviene anche la Regione Lombardia, che con una mozione questa volta del centrodestra insieme al Movimento 5 Stelle autorizza, e questa è una novità, le famiglie a portarsi il pasto da casa, e quindi il bambino può arrivare col panino per evitare appunto che si ritrovi con il piatto vuoto in casi come quello avvenuto a Corsico. Anche qua ci si domanda se questo ritorno al passato non sia sbagliato in qualche modo, perché potrebbe introdurre delle vistose differenze sociali. Immaginatevi un bambino che è figlio di un operaio che veramente non ha i soldi per pagare la mensa, arriva a casa, a scuola, con un panino alla mortadella, e il figlio del ricco che arriva a scuola con caviale e salmone tutti i giorni perché magari la famiglia non gli piace quello che gli viene dato a scuola. E anche questo è una cosa su cui interrogarci. Lo faremo, si può fare, dopo il GR delle 8. Adesso però, come detto, iniziamo con la rassegna stampa. Vi ricordo anche i nostri contatti se volete interagire con noi: 349-238-6666, il numero per gli sms, la pagina Facebook di Si può fare, Si può fare trattino Radio 24. Poi c'è anche il nostro account Twitter, chiocciola Si può fare 24, se volete chiacchierare con me, chiocciola Ale Maurizi. Vai. E allora, i giornali che hanno varie aperture, quasi tutti però dedicano almeno un titolo, forse anche il titolo principale, a quello che il Corriere della Sera chiama il grande gelo tra Roma e Bruxelles, cioè il botta risposta tra il presidente della Commissione Juncker e il presidente del Consiglio italiano Renzi. Su che cosa? Bah, è anche difficile stare a capire, perché insomma Juncker si è lamentato che Renzi offende l'Europa e del fatto che si attribuisce i meriti della flessibilità sui conti pubblici che è stata introdotta da Bruxelles. Juncker dice sono stato io, Renzi dice sì sei stato tu ma te l'ho suggerito io. Sembrano inevitabilmente quei bambini che litigano a scuola: sono stato io, no sei stato tu, io ho la macchina grande, mio cugino c'ha la macchinina ancora più grande, e questo è un po' il livello. D'altra parte, questo signore Juncker, non per diciamo togliere responsabilità al nostro Renzi, ma questo signore Juncker, sono andato a controllare, pensate che ma lo saprete perché è, appunto, è sulla scena politica da, sapete da quando? Da più di 30 anni. ha fatto il ministro per la prima volta nel 1984. In Italia c'era ancora Andreotti al governo, tanto per dirne una. E questo è il signor Juncker, che tra l'altro secondo me ha quasi dato un assist a Renzi, perché oggi dare a qualcuno o così una patente anti-europea con tutto l'anti-europeismo che gira, vuoi per la questione delle banche, vuoi per la questione dell'immigrazione, per tutto quello che volete, oggi dire a uno se è anti-europeista è quasi fargli un favore a Renzi, no? È quasi tirarlo fuori dalla melma. A proposito, vediamo subito quali sono i punti della discordia recenti tra l'Europa e l'Italia, così come ce li ricorda Repubblica a pagina 4. La flessibilità sul deficit, appunto, perché per esempio la nostra legge di stabilità di quest'anno prevede di alzare il deficit al 2,4% del PIL, sfruttando alcune clausole, appunto, di flessibilità introdotte, cioè previste dai trattati dell'Unione Europea, nel caso di riforme, nel caso di investimenti e per spese su immigrazione e sicurezza. Ora però l'Europa contesta all'Italia il fatto che questi aumenti di spesa siano veramente riferibili a quelle stesse voci, proprio una questione di bilancio, e quindi c'è questa polemica. Poi c'è la questione dell'abolizione della TASI. Il governo Renzi, così come altri governi in passato, ha riproposto questa misura che vale 4 miliardi di euro, ma l'Europa vorrebbe che le tasse si spostassero, venissero tolte dal lavoro per essere messe sui consumi e proprio sugli immobili. Quindi c'è una visione differente, una diversità di vedute, così come sulla questione delle banche, per esempio, perché per salvare dal crack le quattro banche del centro Italia, il governo voleva usare il fondo interbancario, ricorderete, di tutela dei depositi, che avrebbe evitato perdite per obbligazionisti e limitato quello degli azionisti, e invece Bruxelles riteneva che si sarebbe trattato di aiuto di Stato, e allora il governo è ricorso al salvabanche, che però ha azzerato le quote di azionisti e obbligazionisti, e siamo alla storia recente. Questo per dire, diciamo, quali sono poi i nodi che ci sono realmente sul tavolo tra l'Italia e l'Europa, al di là di questo, diciamo, duello di facciata, o anche di sostanza, vedete voi, tra Renzi e Juncker. Sulla prima pagina invece del Corriere, la foto di Lidia Macchi, un caso che molti avevano completamente dimenticato, una ragazza uccisa, trovata morta nella notte tra il 5 e il 6 gennaio del 1987, dopo 29 anni si scopre la verità. Un'inchiesta è stata riaperta nel 2013 e che è giunta, diciamo, a felice conclusione, se felice si può dire di un'inchiesta che si chiude per omicidio 30 anni dopo, grazie ad alcune perizie calligrafiche, grazie all'intervento anche della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, ma insomma la sostanza: assassinata dall'amico del liceo, la verità su Lidia 29 anni dopo. È incredibile come non si dovesse andare tanto lontano per cercare l'omicida di questa ragazza, che lo ha prima stuprata e poi uccisa per motivi pseudo religiosi, una vicenda da giallo, ma una vicenda di misera follia umana, naturalmente, come accade in questi casi. Ecco, però qui sono i casi nei quali viene proprio nostalgia dell'investigatore classico, del Maigret della situazione, o se volete del Montalbano, no? Stando a qualcosa di più attuale, cioè quell'investigatore che, indagando nelle reti familiari o nelle vicinanze, negli amici, questo era il compagno di scuola, possibile che nessuno si sia accorto che c'era una persona squilibrata, che aveva avuto un'amicizia sicuramente con lei, una relazione, e che fosse responsabile di questo omicidio. Tant'è. La foto di Lidia Macchi in prima pagina sul Corriere ci ricorda questa notizia. Invece un'altra storia, prima un po' di politica, perché intanto ieri si è candidato per le primarie del centro-sinistra a Roma Roberto Giachetti del Partito Democratico, con un video nel quale ha detto una cosa non nuovissima per la verità: ripartiamo dalle periferie di Roma. E va bene, qualcuno già dice per Giachetti il nuovo Marino, e in comune hanno in effetti una passione militante, non militanza nel caso di Giachetti, nel caso di Marino no, ma insomma origine radicale sul tema dei diritti sociali, per esempio. Giachetti è un ex radicale, poi Verde, poi della Margherita, poi del PD. Però quello che volevo leggervi invece è un retroscena che riguarda l'altro campo, quello del centrodestra, dove Berlusconi, scrive il Corriere della Sera, il pressing su Bertolaso e Del Debbio. Di Del Debbio si sa, di Bertolaso un po' meno. E allora leggiamo: il blitz per strappargli il sì è di sabato scorso a prendere Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, all'aeroporto di Fiumicino, di ritorno dalla Sierra Leone, se non ricordo male anche finito in qualche inchiesta che non si deve essere ancora del tutto chiusa, che ha riguardato proprio la protezione civile, gli appalti dei lavori della protezione civile. Comunque Bertolaso adesso lavora come volontario in ospedali dove vengono curati i bambini. È andato a prenderlo all'aeroporto personalmente Gianni Letta, amico da sempre, braccio destro del Cavaliere. L'ha accompagnato a Palazzo Grazioli, dove si è trovato il padrone di casa, Berlusconi, che gli ha proposto di scendere in campo. Saresti un sindaco perfetto per Roma, sei l'uomo giusto per una città che ha divorziato dalla politica e che vive una enorme emergenza. L'altro a cui viene fatta la corte, lo sapete, Paolo Del Debbio, per Milano, che ha già avuto un'esperienza come assessore in questa città, ma che soprattutto adesso gode di un'ampia popolarità datagli dal programma che conduce sui canali Mediaset, come un programma di inchiesta giornalistica, e tant'è. A tutti e due Berlusconi ha offerto di dargli una mano per affrontare i costi della campagna elettorale, e si sa che Berlusconi è sempre generoso. Una campagna elettorale che a Roma come a Milano viene stimata in un costo, secondo me basso, ma insomma verosimile, di 2-3 milioni di euro. Sempre restando nel campo della politica e anche della cronaca giudiziaria, in questo caso la vicenda De Siano, coordinatore di Forza Italia in Campania, scelto a quanto si apprende da Francesca Pascale, la compagna o ex compagna, a questo punto non si sa più, di Berlusconi, che dopo il crollo dell'odiato Nicola Cosentino, scrive sempre il Corriere, impose un suo fedelissimo al comando del partito in regione, la regione di cui lei è originaria, anche se ormai non ci vive più, sta ad Arcore. De Siano, che è indagato per la questione di appalti sui rifiuti, ma anche, e questo è il titolo che vi volevo proporre perché è incredibile, dava 10 euro al bingo a chi faceva la tessera di Forza Italia. Perché? Nel momento, alla vigilia del congresso provinciale del 2012 di Forza Italia, al cui lui si voleva accreditare come segretario provinciale del partito, De Siano si vede non era sicuro di avere i voti e quindi varò una campagna di tesseramento mirata ai suoi interessi personali, andando a cercare uno per uno i militanti, convincendoli, offrendo loro in cambio non la ricchezza immediata, ma il sogno di ottenerla. Geniale. A ogni neo tesserato il gruppo di De Siano regalava buoni bingo da 10 euro, quindi, che poi insomma è anche poco, perché 10 euro non è che sia tantissimo, però evidentemente ormai il valore della tessera di partito è sceso vertiginosamente, più del petrolio che sta andando giù. E quindi questa è, diciamo, l'accusa, che tra l'altro non credo rientri questa nelle fattispecie penali al momento, ma è una cosa che è emersa dalle intercettazioni. Il reato per cui invece De Siano è indagato è appunto la questione degli appalti, per i quali secondo l'accusa sarebbero stati affidati appalti alterando gare per le assegnazioni in cambio di tangenti. Ovviamente siamo sempre lì, siamo sempre in quella zona lì. Invece chiudiamo la carrellata politica, ma sì, vai, poi parliamo anche d'altro, perché invece La Stampa in prima pagina ha sul tema delle unioni civili una doppia foto, quella di Maria Elena Boschi e quella di Mara Carfagna, unioni civili, l'alleanza al femminile che non ti aspetti. Mara Boschi, Mara Boschi, Maria Elena Boschi, ho fatto una sintesi, grande mediatrice perché è cattolica e starebbe cercando di mediare all'interno del Partito Democratico sulla questione delle adozioni, delle stepchild adoption, ma interessante la posizione di Mara Carfagna, che rompe il fronte, diciamo, cattolico di centrodestra, ma non solo di centrodestra, sul Family Day. Non vado al Family Day, non solo di centrodestra, perché ci saranno anche esponenti del Partito Democratico, come Fioroni, per esempio. Vale la pena ripercorrere un po' la storia della Carfagna, perché era il 2008 quando la 33enne, allora ministro per le pari opportunità, negò il patrocinio a Gay Pride, cioè la manifestazione dell'orgoglio gay, scatenando il putiferio delle associazioni omosessuali contro quella che veniva definita la solita destra xenofoba. Lei, l'ex showgirl che per la sua bellezza secondo loro era stata scelta alla corte di Berlusconi e quindi non veniva presa sul serio, ma lei non si scompose. Pochi anni dopo, grazie all'amicizia, è stata raccontata più volte questa cosa, con Paola Concia del PD, insomma, ha cambiato completamente idea. Adesso Mara Carfagna sostiene molte delle richieste dei gay, compresa quella delle unioni civili, anche se sul tema delle adozioni lei sarebbe favorevole, sulla stepchild adoption, cioè sulla possibilità di adottare il figlio naturale del compagno. Però, dice adesso la Carfagna, in questo momento il DDL Cirinnà spacca il Parlamento e il Paese. Questa parte dovrebbe essere stralciata dalle unioni civili per aprire un discorso più ampio, a parte sulle adozioni. Sai che non ha tutti i torti, perché sul tema delle adozioni ci sarebbe da discutere, vista la difficoltà con cui ancora oggi chiunque, sto parlando adesso, coppie eterosessuali, ha difficoltà ad adottare, e i tanti bambini che poi rimangono inadottati, se si può usare questa espressione. Quindi magari un provvedimento più generale che affronti questo argomento, mettendoci dentro anche altre questioni, potrebbe starci. Ci fermiamo per una brevissima pausa sul traffico, torniamo tra un secondo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori. Stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi con una veloce rassegna stampa che ci porta verso il GR delle 8. Allora, tema depenalizzazioni. Sapete che ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento, dei decreti che sostanzialmente depenalizzano una serie di reati. Per l'esattezza, la lista completa è oggi sul Sole 24 Ore, 41 reati, dalla guida senza patente agli avvisi antiriciclaggio. Allora, vediamo la mappa completa, è ovviamente lunga, ve ne leggo alcuni, quelli che hanno colpito di più, diciamo, l'immaginario, anche perché sono antichi reati da un certo punto di vista. Tipo atti osceni in luogo pubblico, era prevista una reclusione da 3 mesi a 3 anni, adesso ci sarà una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Oppure ingiuria, l'ingiuria, no? Se io ti ingiurio, ti offendo, potevo andare incontro dopo processo ad una reclusione fino a 6 mesi o anche a una multa, ma una reclusione fino a 1 anno in casi specifici, quindi da 6 mesi a 1 anno. Adesso c'è una sanzione civile da 100 a 8.000 euro o in altri casi da 200 a 12.000 euro. Giudicate voi poi se per l'ingiuria era giusto finire in carcere oppure no, o è giusto pagare una multa. In alcuni casi forse può essere più forte come disincentivo una multa da 10-12 mila euro, che non sono pochi, che magari una reclusione fino a 6 mesi, che poi non la fa nessuno, perché chi è che va in galera per ingiuria? Se sei incensurato, oppure sottrazioni di cose, qua siamo nell'ambito del patrimonio, o anche danneggiamento semplice, erano 2 reati per cui era prevista la reclusione fino a 1 anno o fino a 2 anni, e qua si passa a una sanzione civile da 100 a 8.000 euro. Ora, danneggiamento semplice probabilmente è una fattispecie tale per cui è stato ritenuto di depenalizzare. Sottrazione di cose comune, boh, bisogna vedere cosa si intende. Ma naturalmente non mi ergo a a esperto di diritto, perché lasciamolo fare a chi lo sa fare. Poi c'è la questione degli stupefacenti, perché si è detto è stata depenalizzata la cannabis o la coltivazione per scopo terapeutico. Non è esattamente così, perché il reato esatto che viene depenalizzato è questo: mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico. C'è una sanzione fino a 30.000 euro, quindi diciamo, se non sei in regola con le autorizzazioni per la coltivazione per uso terapeutico, però, perché se sei fuori da quell'ambito lì non c'è depenalizzazione che tenga al momento in Italia, anche se alcuni chiedevano proprio invece una depenalizzazione anche di quell'aspetto. Meno reati per tutti, scrive il giornale Emergenza Sicurezza, dagli atti osceni al contrabbando, dal danneggiamento alla coltivazione di marijuana, ecco le depenalizzazioni, parentesi, pericolose, del governo Renzi. Invece Libero si occupa di un'altra notizia ed è la stessa scelta che fa anche, adesso non lo trovo, sì, il Fatto Quotidiano. Entrambi si occupano delle rivelazioni di Flavio Carboni, coinvolto nell'inchiesta sulla P3, quindi su, diciamo, legami occulti tra politica, imprese e corruzione, raccomandazioni, eccetera, eccetera. E il titolo di Libero è questo: se esce la verità su Boschi, salta per aria il governo. L'uomo accusato per la loggia segreta, racconta l'uomo dei misteri di Etruria. Mureddu ha fatto grossissimi favori al padre del ministro e anche a quello del premier. Per risolvere i problemi della banca si incontravano nel mio ufficio, ma ora sono in cattivi rapporti. L'articolo di Giacomo Amadori, che ha incontrato Flavio Carboni, che adesso ha una veneranda età, credo, di, se non trovo, più di 80 anni, ma insomma, parlano di Valeriano Mureddu, il misterioso imprenditore sardo indagato in due procure per diversi reati, compresa la violazione della legge contro le associazioni segrete. Questo indecifrabile personaggio avrebbe avuto stretti rapporti sia con il compaesano Tiziano Renzi, padre di Matteo, vivevano a pochi metri l'uno dall'altro a Rignano sull'Arno, sia con il padre di Maria Elena Boschi. Queste relazioni, secondo Carboni, se venissero alla luce potrebbero far saltare in aria il governo. Addirittura se ne occupa anche il Fatto Quotidiano: Banca Etruria parla Carboni, miei 3 incontri con il papà della Boschi. L'uomo vicino al venerabile Licio Gelli, racconta il Fatto Quotidiano, l'ho conosciuto nella primavera del 2014, ed è curioso come sia il Fatto sia Libero abbiano parlato con, nello stesso momento, con Flavio Carboni per avere, diciamo, delle notizie sul papà della Boschi. Andiamo per l'altra notizia di ieri, abbastanza incredibile. In Francia, a Rennes, paziente cavia ucciso dal farmaco. Inizialmente si era diffusa la notizia che fosse il farmaco testato fosse derivato proprio dalla cannabis, invece non c'entra nulla. Il racconto del corrispondente Anaïs Ginori dalla Francia è questo: quando hanno bussato alla porta della società Biotral di Rennes, sapevano che non si sarebbero certo arricchiti. Fare la cavia è pagato poche centinaia di euro al mese, ma per alcuni è un guadagno facile che non chiede particolari competenze. Siamo davanti a un caso inedito, ha commentato il ministro della salute Touraine, visibilmente sconvolta, durante la conferenza stampa all'ospedale della città bretone. Dei 6 uomini sani che sono stati pagati da Biotral per fare i pazienti zero, 1 è morto, altri 5 presentano gravi problemi neurologici che potrebbero essere irreversibili. È successo questo, che durante la fase 1 di una sperimentazione di un farmaco, questa Biotral, che è una società che viene ingaggiata dalle case farmaceutiche, non è essa stessa casa farmaceutica, ma viene ingaggiata proprio per trovare persone che facciano questi test a pagamento 1.900 euro al mese per stare 2 settimane in ospedale e per subire 10 somministrazioni di questo farmaco sperimentale, bene, 1 è morto e 5 sono in gravi condizioni. L'equivoco è nato perché questo antidolorifico sperimentato a Rennes, già testato sugli scimpanzé, è stato registrato con il nome industriale di BIA-102474, funziona stimolando il sistema endocannabinoide interno, un meccanismo che il nostro corpo usa per sopprimere il dolore producendo delle sostanze che sono cugine della cannabis. Quindi la cannabis non c'entra niente, sono sostanze interne al nostro corpo prodotte che vengono stimolate da questo farmaco. Allora però la questione incredibile è il business delle sperimentazioni. 206.000 sperimentazioni, scrive Repubblica, in corso oggi nel mondo, 679 miliardi di euro di ricavi per l'industria farmaceutica mondiale, 2,5 milioni di volontari solo negli Stati Uniti. Non è un caso se le sperimentazioni siano un business. E questo è quello che è accaduto in Francia, anche se il direttore dell'Agenzia del Farmaco Italiana, Luca Pani, ricorda che in Italia sperimentazioni come questa della fase 1 possono essere condotte soltanto da istituzioni pubbliche e non dai privati. È tutto per questa veloce rassegna stampa con Si può fare. Ci risentiamo dopo il GR delle 8. Andremo per iniziare a Corsico e vi chiederemo, cari ascoltatori, cosa ne pensate della decisione del sindaco di non fornire più i pasti ai bambini delle scuole i cui genitori non pagano la retta. Una decisione giusta per recuperare l'evasione della retta stessa, oltre 1 milione di euro, oppure una decisione che mette in mezzo i bambini? Punto di domanda. Ci risentiamo anche con l'800 24 00 24 dopo il giro delle 8. A dopo, ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up. Uptown funky up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Ricordiamo subito il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24, vi aspettiamo come ogni sabato e domenica mattina. Cari ascoltatori, oggi com'è? Milano-Monterosa? Ma potrebbe regalare delle buone sorprese. Insomma, sì, sì, ormai siamo a gennaio, quindi la mattina non è che si vede ancora molto, però... Continua però, a non piovere, quasi mai, almeno da queste parti, a queste latitudini, ma insomma, non ci lamentiamo. No, io continuo a vergognarmi perché sono contento che non piova, semplicemente per puro egoismo, invece sappiamo tutti che dovrebbe piovere per abbassare i PM10 per un sacco di motivi ambientali. Cari ascoltatori, allora, intanto vi aspettiamo per commentare, io l'ho già anticipato, la prima cosa di cui parleremo oggi è questa vicenda. Siccome a noi piacciono sempre le proposte, però a volte le proposte dividono, no? Le proposte concrete, chi cerca di risolvere i problemi, a Corsico il sindaco per come dire, risolvere la questione del mancato pagamento delle rette per le mense scolastiche, tema che è già sorto anche in altre città, ha deciso drasticamente, come è stato fatto anche in altre occasioni, a dire la verità, poi bisogna vedere anche il seguito di queste iniziative, di autorizzare l'azienda che fornisce i pasti a non fornire i pasti ai bambini i cui genitori non pagano. Insomma, apriti cielo, perché è un tema spinosissimo. Spinoso. Bambini senza cibi in mano non sono mai un bel vedere, ed è sempre difficile entrare nell'argomento. D'altra parte, la regione, pochi giorni dopo, proprio per metterci una toppa, ha autorizzato le famiglie a portarsi il cibo da casa, e questo è anche questa una piccola novità. Vero. Che però sembra quasi un ritorno al passato, no? Intanto i bambini non rimangono col piatto vuoto, ok, questo sì, però qualcuno dice, beh, ma immaginiamoci ognuno che si porta le cose da casa, il figlio dell'operaio che si porta il panino al formaggio e il figlio del ricco che si porta caviale, certo, e salmone tutti i giorni. Non lo so. E quindi è tristissimo il povero bambino con il caviale, perché preferisce secondo me il panino al formaggio, certo, assolutamente. Invece cercheremo di non parlare di unioni, sì, civili, visto che se ne parla tantissimo, però ci tengo a dire questa cosa, che sono, diciamo, per chi sta aspettando questa legge da molti, molti, moltissimi anni, sono giorni piuttosto terribili. Ci sono quotidianamente attacchi a questa legge, diciamo, sulla questione dei cattolici che hanno deciso di usare l'arma della preghiera strutturata e organizzata. Ho risposto ieri sulle pagine di Vanity Fair, su tutte le notizie che escono quotidianamente. Bisognerebbe scrivere, credo, 4 articoli al giorno per fermare questo, questo attacco ideologico, è fatto usando un sacco di falsità e un sacco di menzogne, come appunto la questione dell'utero in affitto, che questa legge assolutamente non legalizzerebbe, perché l'utero in affitto in Italia è vietato dalla legge 40. Esatto, quindi... ricordiamolo, quando dici questa legge non c'è ancora una legge, no, la no, legge certo, che è in discussione. È la legge Cirinna sulle unioni civili. Perché se no uno si perde, dice, ah, c'è esatto. già la legge. No, no la legge no. sulle unioni civili non ed è anche c'è già ancora. Slittata, è già slittata, doveva essere il 26, invece andrà in aula il 28. Il 23 c'è la mobilitazione di Arcigay in 61 città italiane, si stanno aggiungendo altre città. Il 30 gennaio c'è il Family Day. Mm. E insomma pare che slitterà, quindi avremo tempo per parlarne e speriamo finalmente per trovare una soluzione. Ricordo a tutti che la legge Cirinna non è assolutamente contro né Dio né la Madonna, contro nessuna costituzione, contro nessuna famiglia, contro nessun bambino. È un primo passo doveroso in una questione dove i diritti non ci sono tutti, e ripeto, la legge Cirinna è un primo passo, perché non potrà essere che nel momento che c'è quella legge allora non si può più parlare di tutti gli altri diritti che ancora mancano, non solamente per il mondo LGBT ma per un sacco di altri mondi anche dimenticati. Insomma, io dico sempre, più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno. Esatto. Cari ascoltatori, allora vi chiediamo oggi anche di giocare con noi su questo argomento, il posto fisso. Io fin di Zalone non l'ho visto ancora, ma lo vedremo, perché non c'è una preclusione contro. Manchiamo però, solo noi due, però Alessio. Sull'argomento sì, perché noi ci siamo chiesti, ma veramente oggi i giovani, ma anche i meno giovani, hanno questo sogno del posto fisso? Hanno questa ambizione? Secondo noi no, perché noi abbiamo sentito tante di quelle storie qui a Si può fare, a Radio 24, ma anche altrove, di persone che inseguono un loro sogno, una realizzazione personale che non ha nulla a che vedere con il posto fisso, soprattutto come è giusto che sia tra i giovani, che sono magari anche più scriteriati e senza coscienza da questo punto di vista. Gente che magari cerca uno stile di vita più a misura d'uomo, a misura umana, gente che apre agriturismi, che vive coltivando fragole, allevando pecore. Ti ricordi quello per la manutenzione dei prati? Certo, bellissime. Una ventina di pecore che ti vengono portate sul tuo prato invece del tosa erba. Oppure gente che vive fabbricando remi per gondole, e sono tutte storie che noi abbiamo raccontato. Oppure producendo cioccolata di qualità. Insomma, è tutto un mondo che noi abbiamo raccontato tante volte. Certo. Allora vi chiediamo, cari ascoltatori, qual è il sogno vero che voi state realizzando, state cercando di realizzare in questo momento, che non abbia nulla a che vedere con il posto fisso. Esatto. 800 24 00 24, vi aspettiamo, vai. Sembra questa storia, mamma, non me lo fa mangiare. Devo dimagrire 10 kg perché sono ingrassato un po'. Questo è il piccolo Lucio, a me piace la Nutella, che non so se famosissima, mi ricordo bene, anche perché il suo video su YouTube ha fatto un sacco di visualizzazioni. Sì. Bibbo Grassottello, esatto. Amante dei cibi schifosi. E poi quando schifosi. Io feci il video, la marmellata e la Nutella, che è sul mio canale YouTube, un sacco di persone ovviamente mi iscrissero dicendo, ah, ma allora c'è un contatto con questo video di questo ragazzino che cantava questa canzone molto divertente. Un seguace moderno, non so fino a che punto, della tradizione neomelodica, no? Certo. Napoletana. E canta questa passione per i cibi schifosi. Era un modo come un altro per introdurre l'argomento di cui abbiamo già annunciato. E voglio dare il buongiorno al preside dell'Istituto Galilei di Corsico, in provincia di Milano, Manfredo Tortoreto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, a tutti voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, preside, intanto diamo qualche notizia, perché il sindaco della sua città aveva appunto annunciato pasti ai bambini nelle mense scolastiche i cui genitori non pagano la retta. Ora noi sappiamo che poi sono passati dei giorni, e intanto le chiedo come sta andando, se questa, diciamo, direttiva del sindaco è stata realmente applicata lì nella vostra scuola. Allora, sì, diciamo che si sta avviando veramente alla normalità un po' la situazione, perché siamo partiti ai primi di gennaio, cioè il 7 gennaio, con una situazione veramente molto molto difficile, perché solo nel mio istituto, per esempio, c'erano stati comunicati il 6 gennaio 124 nomi su 450, quindi quasi un terzo, che non avrebbero dovuto mangiare in mensa quel giorno, da quel giorno in poi. Quindi un'emergenza gestita in poche ore abbastanza complessa, come puoi immaginare. Però da allora, quindi dopo una settimana, ci stiamo avviando, sì, alla normalità. Questo è il primo dato. Come? Ecco. In che senso? Come? In vari modi, perché noi appunto abbiamo ricevuto la CAMS, questa diffida di non fornire il pasto a quell'elenco di morosi, e noi abbiamo ovviamente reagito in tanti modi. Come? Sostanzialmente... Perché lei, Preside, ci dica subito la sua posizione. Lei è contrario a questa presa di posizione del sindaco di Corsico? Sì, siamo contrari. Io, noi tre presidi, docenti, se permette le spiego anche il perché. Sì, assolutamente. Allora, la nostra non è una posizione politica, però così, volendola mettere anche su un piano un pochettino più leggero, le faccio questo ragionamento, che parte dal dato del rapporto di Save the Children, e cioè, che è pubblicato, è molto importante, uno studio veramente molto approfondito sulla questione mensa in Italia. E cioè, laddove c'è la mensa e c'è il tempo pieno, noi otteniamo tassi di dispersione, di socialità e di educazione alimentare molto inferiori. Cosa vuol dire? Che là dove c'è il tempo pieno e la mensa, gli studenti sono più preparati, più bravi, più socievoli, più abituati ai valori solidali. Quindi per noi è importante. Quindi per voi è un valore aggiunto, diciamo, il tempo pieno, quindi di conseguenza anche l'ora di mensa, insomma. Certamente. Però di qui a contrastare la decisione del sindaco, che vuole recuperare questa evasione che c'è, questo credito che c'è, io immagino adesso lei ci aiuterà a capire se... lei per esempio che cosa ne pensa? Sono persone che realmente non se lo possono permettere, e io credo che nella maggior parte dei casi sia così, o c'è anche magari qualcuno che fa il furbo, che ci marcia, che certo, tanto nessuno me lo viene a chiedere, non è neanche come una multa che ti arriva raddoppiata a casa, perché fino ad oggi credo che fosse più o meno così, e quindi... Allora, certamente nell'elenco che ci hanno inviato, che noi conosciamo bene perché sono i nostri alunni, le nostre famiglie, quindi potremmo fare la radiografia di ciascun nucleo familiare, perché come scuola abbiamo rapporti quotidiani come insegnanti, come docenti, come presidi, con ciascuno di loro. Certamente all'interno di questo gruppo, di questa lista, ci sono dei furbetti, degli evasori, cosa molto grave. D'altra parte, lo sapete anche voi giornalisti, in Italia l'evasione è molto alta e si nasconde anche in queste rette scolastiche. Questo però, dal nostro punto di vista, è relativo, nel senso che per noi i bambini, che sono la nostra utenza, la nostra materia prima, non hanno nessuna responsabilità rispetto alle colpe di questi genitori. Per cui, se è vero che i loro genitori sono disonesti, il bambino in sé, che abbiamo davanti in classe tutti i giorni, è per noi intoccabile, tanto più che non è lui a pagare o non pagare, scegliere di pagare o non pagare la retta, è il suo caro genitore. Quindi certamente è così, ma non ci sono solo loro. Quelli che sono rimasti, perché ce n'è ancora qualcheduno, sono quelli che noi consideriamo un po' gli ultimi, veramente i più poveri dei poveri, quindi casi non solo sociali, ma di grave difficoltà economica e familiare. Quindi, oppure semplicemente ritardatari. Io nell'elenco ho persone che avevano 17, 19, 50 euro di ritardo. Allora, trattare nello stesso modo di quelli che sarebbero giustamente da punire, sempre senza toccare i bambini, e quelli che invece hanno un ritardo o sono in difficoltà economica, perché mi creda, a Corsico si sente molto, non è giusto. Questo, tra l'altro, posso dire una cosa anche personalmente. Io ho una bambina di 4 anni che frequenta la scuola materna, 4 anni e mezzo, e ho pagato anch'io la retta per la mensa scolastica. Ti viene data la possibilità di rateizzare, ma credo fino a 2-3 rate, una cifra che è intorno, se non ricordo male, a 500-600 euro. Esatto. In un anno. Alcuni di questi genitori intervistati davanti alla scuola dicevano: non si può pagare, che ne so, a 20 euro al mese o a 10 euro al mese. Esattamente. Allora, questa è una possibilità che invece anche lei è d'accordo, andrebbe data. Ma certamente Presidente, infatti, qual è stata la nostra coesione a Corsico, di noi presi, docenti, le associazioni, i comitati dei genitori? Quello di spingere affinché il Comune assumesse posizioni più responsabili, perché a fronte di un debito di 900, 1000 euro, 2000 euro o anche solo 500, dare la possibilità di dilazionare in maniera umana, contestualizzando la situazione economica, era la soluzione giusta e infatti l'hanno applicata. Quindi questa iniziativa un pochettino così propagandistica dal nostro punto di vista ha sortito effetti non necessariamente e sempre positivi. Posso scherzare un attimino su questa cosa, dottore? Allora, è noto che le società collassano, diciamo così, per alcune scelte sbagliate, diciamo così. Così come è noto che le società progrediscono e si evolvono grazie anche a quello spirito altruistico di coesione e di cooperazione, le società degli insetti come le società umane. Allora, noi crediamo che questa non sia una battaglia, come dire, solo politica, eccetera, perché mi interessa relativamente. Noi siamo fermamente convinti che i valori della cooperazione, della condivisione sono quelli che ci permetteranno di evolverci come società, sono quelli da difendere, che ci porteranno a evitare il collasso, diciamo così, della società. Hai ragione, però tutto sta a vedere poi questa cooperazione, anche quali regole. Tra l'altro, a proposito di insetti e di formichine che risparmiano, adesso anticipo che racconteremo tra poco un'esperienza in un'altra zona, ad Asti, dove in una scuola elementare come formichine hanno trovato un sistema per risparmiare molto sulla spesa della mensa scolastica, facendo proprio dell'orario della mensa quasi un'ora di insegnamento scolastico, coinvolgendo i bambini con porzioni condivise. Questo però dopo. Bravi. Le volevo chiedere una cosa, che forse è una domanda stupida, le chiedo scusa, ma lei prima giustamente diceva, noi conosciamo tutti le famiglie di questi studenti, quindi potremmo fare una precisissima radiografia di ognuno di loro. E allora mi chiedo, e ripeto, forse è una domanda stupida, ma se è così, non è semplice capire chi non può permettersi di pagare la scuola perché ha problemi economici, quindi ovviamente i loro figli devono poter mangiare perché non ha senso che non mangino, e chi invece non paga la mensa scolastica perché con quei soldi in realtà si compra l'iPhone o un'automobile, esatto, e tra l'altro sfrutta, tra virgolette, i propri figli, cioè usandoli, esatto, come scuse per non pagare. Se voi potete fare la radiografia, non possiamo scindere queste persone e risolvere il problema alla base? Ma certamente, carissimo, è proprio questo che abbiamo chiesto subito da quest'autunno al sindaco. Rendeteci corresponsabili della gestione e della governance di questo fenomeno, perché noi possiamo aiutarvi a individuare gli opportunisti, diciamo così. Ma il sindaco non vi ha convocato? Non vi ha convocato? Il sindaco non ci ha ascoltati, gli abbiamo chiesto varie volte colloqui, lo stesso ufficio scolastico, che sono quindi i miei superiori, hanno chiesto al sindaco di interagire con noi nella gestione di questo fenomeno. Però questo non è avvenuto. Allora noi facciamo un appello al sindaco di Corsico di invece parlare col preside, parlare con i dirigenti scolastici, che avranno le loro posizioni magari diverse da quelle del sindaco, ma possono avere anche delle informazioni che possono essere utili. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi chiediamo anche di raccontarci che cosa ne pensate di quello che sta accadendo a Corsico, e se anche nelle vostre città, nelle scuole dove vanno i vostri figli, si sono create delle situazioni del genere. Preside, le voglio chiedere un'ultima cosa: cosa ne pensa della mozione approvata dalla regione, proposta dai 5 Stelle ma approvata anche dal centrodestra, che dovrebbe consentire, proprio per evitare il piatto vuoto, la sindrome da piatto vuoto, di portarsi il cibo da casa, la schiscetta, ecco, che però è un ritorno a forse la mozione schiscetta. Ecco, ma la risposta è nella canzoncina che avete trasmesso, e cioè ci troveremmo in gravi difficoltà a poter gestire l'educazione alimentare e a vivere questo momento della mensa come momento conviviale di socialità. Perché di se ognuno fa per sé, poi diventa difficile dare un messaggio. E la risposta è questa: quello che è stato bello fino adesso è proprio immaginare i nostri refettori come se fosse sempre la cena della vigilia di Natale o di Capodanno, perché si pranza tutti insieme, la stessa cosa, lo stesso piatto, si chiacchiera, ci si racconta le cose e si vive un momento di grandissimo scambio culturale e anche affettivo. Però a Natale, quando si va al ristorante, poi si paga il conto comunque. Ha ragione perfettamente, ma bisogna pagarlo, diciamo, proporzionalmente alle nostre possibilità. Ma ci mancherebbe altro, certo. Cioè, ecco, lei dice che col cibo da casa si rischierebbe di finire tutti col panino o con la Nutella. Che... Immagini cosa potrebbe succedere. Chi si porta, non so, una teglia di pizza e chi appunto due pomodorini e magari due carotine, perché la mamma, diciamo così, ha tutte le sue visioni sull'alimentazione, eccetera, cose correttissime. Ma la scuola è ancora il nostro, diciamo così, dominio che vogliamo gestire con le nostre finalità educative. Quindi la difesa però, scusi, dei bisogni. Un'ultima cosa, io non ho capito. Alla fine è accaduto o no che da alcuni bambini siano rimasti col piatto vuoto? Bravo, allora se vogliamo dire che cosa si può fare questo, cioè si può dimostrare, come hanno fatto le maestre, come ha fatto la CAMST, sì, che è l'azienda che fornisce i pasti, si può fare di essere solidali e elargire comunque i pasti, perché da questo valore ne sono discese delle azioni concrete e quindi dal nostro punto di vista le maestre hanno diviso il loro piatto, sì, offrendo ai bambini. Coi la bambini. CAMST. Però scusi Presidente, anche ai figli di quelli che lei immagina che possano essere quelli che ci marciano è stato, sì, dato il piatto anche tu. I figli, ma anche perché non è colpa loro, giustamente lei diceva prima, diceva... No, per noi veramente i bambini sono tutti uguali e non possono avere un trattamento diverso, perché per questo è un principio proprio, diciamo, di civiltà talmente radicato che non è trattabile. I bambini sono intoccabili, i genitori è giusto toccarli, punirli nella maniera giusta, in tutti i maniere, quello che penserà il sindaco di fare lo farà bene, ma i bambini no, non hanno colore, censo o altre colpe, diciamo così. O partita IVA. Va bene, grazie mille. Uguali. Bravo, non hanno la partita IVA. Grazie, grazie. Presidente. Grazie mille. Dell'Istituto Galilei di Corsico, il presidente Tortoreto. E questa... Posso dire una stupidata? Si sente anche che un preside, perché tra tutti gli ospiti che sentiamo non ha assolutamente nessun problema a rispondere presto la mattina. Hai visto com'era? No, vispo, sveglio, nessunissimo. Che non ha sbagliato i congiuntivi. Invece no, vabbè, quello ci mancherebbe altro. Ne fai una questione di orario, giustamente. Sì. 800 24 00 24, tra un attimo. Eccoci qua, cari ascoltatori, cominciamo anche a sentire le vostre voci, cominciamo con Roberto che ci chiama da Milano, buongiorno. Pronto? Pronto Roberto, siamo qua. Sì, sono Roberto, in realtà siamo dalla provincia di Milano, da Lagnate, ho 54 anni, ho un posto fisso, sì, e quindi è un'età in cui quando ho iniziato a lavorare si cercava proprio il posto fisso. Ed esisteva ancora soprattutto? Esisteva un sogno, io credevo di essere arrivato in una delle multinazionali forse più importanti in Europa e sì, poi le cose sono andate diversamente e a un certo punto ho cambiato anche tanti lavori e ci si trova a dire ma cosa sto facendo per me veramente? Sto semplicemente cercando di... Ma ha mollato il posto fisso? C'è stata una scelta o è stata una contingenza? No, sono state esigenze, quindi ho dovuto cambiare perché l'azienda è in crisi, situazioni... Certo. Eccetera, eccetera. Roberto, hai trovato il tuo sogno? Il mio sogno da realizzare? Sì, il mio sogno sarebbe quello di appunto realizzare la possibilità di vivere, non dico diventare ricchi, ma vivere navigando. Quindi io sono uno skipper, ho una patente nautica, lo faccio da tanti anni. E che questo potesse diventare un po' la tua attività principale. Ma eri disposto a spostarti da Lainate oppure volevi rimanere anche a Lainate? Perché no, è difficile, no, essendo in provincia di Milano, insomma, e c'è la passione, lo skip, però. Esatto, dico, sono disposto, certamente, come lo sono nel seguire. Ma tra l'altro, Roberto, questa possibilità è stata utilizzata da tanti che hanno fatto, come si dice, downshifting, cioè il fatto di diventare skipper per portare delle comitive turistiche in giro, insomma, come attività, perché è una di quelle che va più per la maggiore. Ci hai provato concretamente a realizzarlo, questo sogno? Allora, diciamo che lo sto facendo da anni, diciamo, con amici, organizzando delle vacanze, delle uscite. Nel farlo sto entrando in contatto e quindi sto creando una, sì, rete di persone che sono professionisti e sto pensando seriamente di poterlo fare, almeno nei prossimi anni, per i quali ho calcolato questo. Se ho ancora 30 anni, 40 di vita, e ne ho solo 10 di lavoro, ho pensato, dove vale la pena oggi investire di più? Sui 40 che mi restano ancora di vita o sui 10 di lavoro? E quindi stai puntando direttamente al dopo. Giusto, beh, è un ragionamento. È un sogno bellissimo, tra l'altro, vivere navigando. Credo che forse costa anche meno, perché io, per esempio, abbiamo intervistato una famiglia di Bologna, la famiglia Sola, che ha venduto la casa e ha comprato una barca spendendo un po' meno e ha tenuto la parte dei soldini e adesso provano a vivere facendo proprio questo, realizzando il loro sogno. Roberto, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie, ragazzi, come si dice, vento in poppa in questo caso. Anche di Bolina, che è molto bello. Ciao. Siamo purtroppo troppo pochi esperti per riuscire a fare anche una battuta. Ti auguriamo vento di Bolina. Allora, Patrizia La Foggia, la sentiamo dopo il traffico. Resta con noi, ci fermiamo un secondo. Eccoci qua, riprendiamo con Patrizia, come detto, che ci sta chiamando da Foggia. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Prego, cosa voleva dire Patrizia? Allora, io volevo rientrare a proposito delle mense. Sì. E da noi la realtà è che la qualità della mensa è molto scadente. E quindi a Foggia? Sta parlando? A Foggia, ah. Sì. Perché a Foggia. Scadente? Lei ha dei figli, dei nipoti? Ho avuto dei figli, perché adesso sono grandi, però sì. Anche i genitori, perché sono un insegnante, quindi sono anche in un istituto comprensivo, e la qualità è molto scadente. Ah, anche quindi lei tutti i giorni è a contatto con una mensa scolastica, perché sì, ci lavora? Sì, sì. Uh-huh. E stavo dicendo, e quindi anche perché andando sulle gare d'appalto, perché i comuni si devono gestire in questo termine, molte volte vengono da fuori rispetto a dove siamo localizzati e quindi i pasti sono freddi, ma la qualità è proprio scadente, cioè non c'è, forse non c'è un nutrizionista, non lo so, però i genitori se ne lamentano parecchio. Sì. Poi i costi. Vabbè, però mi scusi, ma mangiano tutti o c'è qualche bambino che resta senza il cibo? No, adesso stanno cioè comunque c'è qualcuno che non paga, però fanno fronte con altri sussidi, cioè mangiano, certo, tutti. Vabbè, mangiano tutti. Almeno questa è una buona notizia. Però scusi, sì, Patrizia, però mangiano male. Il fatto che mangiano male e per il fatto che si lamentino, però questi genitori ammetterà che può anche essere un po' un'abitudine a lamentarsi, che non va mai bene quello che si mangia, no, che uno vorrebbe sempre perché una cosa diversa, c'è anche un po' questo. No, perché proprio che il cibo che arriva freddo, la qualità, che voglio dire, su quello che portano, che non è qualitativamente valido. Poi anche perché forse, non lo so, probabilmente, voglio dire, viziamo anche i figli a casa, per cui anche un discorso mensa dove il pasto, insomma, è un po' più semplice. Io sento probabilmente che cucinate troppo bene a casa e quindi poi uno è abituato troppo bene, va in mensa e dice, ma qua è tutto cattivo. Io ho sentito tanti genitori, Patrizia, dire, sì, non so, per esempio, ma non posso dargli tanta verdura perché mio bambino non è abituato a mangiare la verdura. Adesso sappiamo tutti benissimo che la verdura fa bene e quindi se a scuola la propongono io sono felice. Sì, però il discorso è che la verdura, voglio dire, per poterla fare passare, a parte che ci dovrebbe essere forse alla base un discorso alimentare, sì, ma deve essere anche un discorso qualitativo, perché se i fagiolini, no, arrivano, certo, scotti, sicuramente sfido chiunque a mangiare dei fagiolini scotti. Però sul, insomma, discorso che abbiamo ci affrontato sono drammi peggiori. Sul discorso, però, esatto, quando, che abbiamo affrontato stamattina, sì, Patrizia, sì, aveva qualcosa cosa sì, da dire, infatti, o voleva solo parlare, sì, del cibo scadente? No, volevo sì, complessivamente dicevo che i costi poi per gestire questo servizio mensa sono notevoli per i comuni. E poi l'altra cosa è che il comune dà anche, almeno da noi, non so, penso che sia da tutte le parti, dà dei contributi per quanto riguarda il diritto allo studio. E su questi contributi molti genitori, perché io mi occupo del disagio, sì, a scuola, quando arrivano sempre ad anno inoltrato, invece di investirli sui libri o su altro materiale, voglio dire, vanno a comprare scarpe, vanno a comprare di tutto e di più, tranne che quello che la didattica fa. Per cui, questo è sbagliato. Potrebbe prevedere anche un contributo rispetto alla mensa. Alla per mensa, ha ragione Patrizia. Credo che probabilmente su questo fronte ci sarà comune e comune. Ogni comune avrà un po' una storia a sé. Credo che sulla base del reddito ISEE eccetera eccetera, la certificazione del reddito, ci siano degli aiuti che i comuni danno alle persone a basso reddito che possono rientrare anche nel discorso, certo. È interessante come usano i contributi, certo, visto che c'è anche Renzi che vuole dare il bonus agli studenti, cioè capire come vengono spesi questi soldi, che uno dice sono per andare a teatro e poi invece scarpe. Uno si compra le scarpe, questo però, è purtroppo è sempre però le possibile. Scarpe servono anche per andare a teatro, non è che puoi andarci scalzo. Se c'è la

loro fanno metà, cioè i due si smezzano il piatto. Ah, se lo smezzano loro, quindi imparano anche la matematica, secondo me. Perché se sono maccheroni molto buoni si contano. Hanno anche imparato la statistica quest'anno, sono in quarta, per cui si danno un pochino più da fare. Abbiamo registrato quotidianamente il consumo esatto di porzioni e mezze porzioni, sì. Per cui noi abbiamo fatto anche la media e sappiamo che in media la nostra classe, quando si sedono in 24, ritirano 18 porzioni. Abbiamo fatto due conti. E quindi ci sono 6 porzioni che avanzano. Tre quarti. E abbiamo fatto il conto e prendendo... E qui abbiamo avuto l'aiuto eccezionale da parte dell'amministrazione e del servizio mens del comune e anche quelle della cooperativa, che ci hanno rivelato... Dobbiamo chiudere però in 20 secondi, Giampiero. Ci hanno rivelato quanto risparmiamo, abbiamo fatto due conti, potremmo avere un risparmio di 1.800 euro all'anno di risorse risparmiate per ogni classe. Quindi da investire in altre cose o da far risparmiare anche alle famiglie. Torniamo al discorso di prima. Grazie mille, Giampiero Monaca. Bellissima notizia, non si può fare. Buon appetito. Bellissima storia, buon appetito. È un po' presto, ma poi lo facciamo. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La sua bellezza ti può uccidere. La sua bellezza non ha limite. La sua bellezza rende fragili. Non avrò pace fino a che non l'avrò tutta per me. La sua bellezza non sa fingere, la sua bellezza è sesso in polvere. Chi pensa che le può resistere, prima o poi si ricrederà e come tutti impazzirà. Tu sei perfetta per me, lo sento a pelle, perché sai trasformarti in ciò che non pensavo esistere. Io sono un folle, testardo, innamorato di te, ma consapevole che mia non puoi essere. La sua bellezza non può esistere. Allora, con i Modà, la sua bellezza, perché insomma, la grande bellezza italiana l'anno scorso è stata apprezzata da un numero in crescita di turisti, di visitatori che hanno riempito i musei italiani come mai prima. I numeri li ha forniti questa settimana, dobbiamo fidarci, sì. Ci fidiamo e anzi siamo felici e festeggiamo un più 6%. Hanno cioè più 2 milioni e mezzo più 2 milioni e mezzo. Posso dire che presuntuosamente un pochino di merito penso che ce l'abbia anche questa trasmissione, ovvero noi di Si può fare, che parliamo tantissimo, se non altro anche semplicemente perché regaliamo due biglietti per andare a una mostra tutti i sabati e tutte le domeniche da anni. Anche oggi, tra l'altro, agli ascoltatori che vogliono rispondere e giocare con noi sul il sogno da realizzare, che stanno cercando di realizzare un sogno che sia diverso da quello del posto fisso di cui parla Zalone nel suo film, ma invece è con noi, diamo il buongiorno Filippo Daverio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, un grande piacere averlo con noi di nuovo. Io le voglio chiedere, Daverio, a cosa si può diciamo imputare questo risultato, che sicuramente è un risultato molto positivo, di crescita dei visitatori nei musei italiani? Non so, potrebbero essere anche le giornate in cui si entra gratis? Ma è un misto di elementi. Sì. È un misto di elementi. Gli italiani sono un po' più consapevoli. Gli altri intrattenimenti sono sempre più noiosi. Qui c'è un confronto anche il cinema, questo mi sembra interessante, tanto come... per dirne una, perché il cinema c'è Zalone, poi però gli altri film vengono visti pochissimi, quindi... gli altri vanno visti poco, il piccolo schermo domestico fa quello che può ma sempre meno, quindi per fortuna che ci sono film orrendi, direi, intanto come primo punto. No, poi c'è un'altra cosa, la visita al museo è molto spesso un fatto sociale, perché non ci si va da soli. È vero. Ed è un posto nel quale si riesce anche a conversare con un altro, cioè si commenta, non necessariamente come se si fosse Bernard Berenson, ma questo non è grave. Si commenta, cioè è una sorta di spettacolo interattivo. Uno pensa che l'interattivo sia il computer, no? Invece la cosa più interattiva che esiste è il museo. Forse proprio perché invece nell'altra bello. Parte della nostra vita dominano molte attività virtuali sui social network, sul computer, poi viene scatta questa voglia di socialità. Noi viviamo un mondo che è molto virtuale per un verso e poco interattivo per l'altro. E scopriamo che il museo è interattivo, cioè nel senso che se uno si avvicina e si allontana dall'oggetto lo vede in modo diverso. Certo. Cosa che non può fare con tanti altri robe, non può fare con la televisione. E poi è una cosa che si va con la compagna, il compagno, gli amici, e poi dopo quando è finito si va anche a mangiare una cosa, e poi c'è il bar e poi c'è il viaggio per andare. Però lei ci avrebbe scommesso davvero qualche anno fa che poteva essere, adesso uso un'espressione volutamente così gergale, e proprio essere figo, no? Andare al museo, una cosa da raccontare. Sembrava che fosse un'esperienza polverosa, vecchia, che nessuno interessava più. No, perché io mi sono occupato di quell'argomento lì 25 anni fa, certo. Girare, quando ho preso in mano il sistema museale milanese, che era una sorta di osso dimenticato in un angolo, e nel giro di pochi anni è diventata una macchina da grande comunicazione. Quindi la cosa si può fare. Quello che è interessante però è vedere sempre il rapporto tra noi e il resto dell'Occidente, perché noi siamo un pezzo d'Occidente, ricordatelo, e i nostri numeri sono, per quanto molto di soddisfazione, ancora piccoli rispetto a quelli internazionali. Questa era l'altra domanda che volevo fare, perché dunque noi abbiamo raggiunto, sfiorato 43 milioni di visitatori, hanno dei record. Franceschini dice che non ci abbiamo mai avuto una quota così alta in assoluto proprio nella storia italiana di visitatori. Questo però è venuto lui, sì, certo, prima non era così, ma però guardando agli altri musei, cioè British Museum piuttosto che Louvre, esatto, che fanno cifre molto più alte. I British e il Louvre fanno da soli più di un quarto di tutta l'Italia. Ah, però quindi abbiamo ancora da lavorare, possiamo dire? Sì, vabbè, ma no, noi abbiamo da fare soprattutto una cosa, non avendo in prospettiva né il British né il Louvre, perché Napoleone ha combattuto da quel lato lì, non dal nostro, quindi ha rubato le robe nostre per portare a Parigi. Certo. Come solo noi avrebbe rubato quelle francesi per portare qua, e è andata così, no? Noi abbiamo un meccanismo diverso del sistema museale anglosassone o francese. Abbiamo il museo diffuso, vecchia tesi che inventammo tanti anni fa con Antonio Paolucci, quello che dirige adesso il Museo Vaticano. Cioè il fatto che tutto il paese in realtà è una sorta di museo, che dalla Reggia di Caserta è un museo, anche se uno ci passa in automobile. E dovremmo cominciare a ragionarci sopra su questa cosa qua, anche perché poi il nostro pubblico bizzarro, dato che cito sempre, la Reggia di Caserta fa metà delle visite della falsa casa di Giulietta Romeo a Verona. Vabbè, ci sta anche questo. Ma no? Facciamo una falsa Reggia di Caserta a questo punto, cioè vien voglia. Perché in realtà perché il pubblico ha molto spesso più fantasia di quanto l'ente pubblico non sia in grado di rifornire. Quindi certo. La domanda di dove si incrocia lo svago e la voglia di sapere. La cultura alta è anche quella pettegola, cioè tutta questa roba messa insieme, il ciucco e l'autentico, però è sempre positivo, perché alla fine i due innamorati che vanno a casa di Giulietta Romeo, mettono il ciucco sulla parete, attaccano sul tundir, in fondo compiono anche loro un gesto culturale. Cioè adesso li vediamo anche i singoli musei, perché per esempio però aspettiamolo di essere esaltatori e basta, rimane sempre una questione drammatica, per esempio l'assoluta inesistenza del dialogo italiano con l'arte contemporanea. Quindi siamo fermi un po' al passato, diciamo. No, siamo cadaveri. Cadaverici. Oltre a cadaverico siamo anche un po' sul ventello, perché la Biennale di Venezia da 15 anni è in mano al primo rappresentante possibile degli affari angloamericani. Diciamo che potrebbe essere un'altra... Come? Cioè non abbiamo più avuto un curatore italiano della Biennale da 20 anni. Sì. Praticamente. Si fa vedere solo delle cose che interessano a quattro commercianti che stanno fra Soho. Ma quindi siamo un po' commissariati, sta dicendo che la nostra biennale esiste anche sempre con colazioni, siamo colonizzati. Ma scusi, davvero, da chi siamo colonizzati? Dagli americani? Da un mondo, dal mondo della cioè una sorta di meccanismo finanziario anglo-americano, sì. Ma soprattutto anglo-americano, cioè New York, Londra. Sì. Beh, ci sono grandi borse, grandi case d'asta, in effetti girano sì, i soldi che contano. Business, e questi decidono quello che si deve vedere anche in Italia. Ma no, non è che non me frega niente di quello che guardano gli italiani. Mi interessa però alcune strutture italiane tipo la Biennale di Venezia come palcoscenico mondiale. Davvero, perché, fermiamoci un secondo perché se ha ancora qualche minuto per stare con noi, devo dare le informazioni sul traffico, poi approfondiamo questo argomento. Ma io volevo vedere anche i siti, quelli più visitati, dal Colosseo a Pompei, alcuni che calano invece, vedere anche un po' di capire come mai, per esempio, gli scavi di Ercolano calano o anche Pestum e invece Pompei va benissimo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Filippo Daverio, con il quale stiamo commentando questo bel risultato dei musei italiani, più 2 milioni e mezzo di persone nel 2015 rispetto all'anno prima. Daverio ci diceva però attenzione, perché dobbiamo comunque lavorare proprio su questi numeri, perché in altri paesi il solito discorso, con meno magari beni culturali di noi, fanno risultati ancora più straordinari. E poi parlava, siamo carenti per esempio nell'arte contemporanea, però va molto di moda adesso l'arte contemporanea nel mondo? Beh, nel mondo è una cosa che continua ad avere un grande successo, basta pensare ai prezzi che fanno, no? Quindi diciamo lì ci si fanno i soldi veri. Però non è che la gente dall'Italia si aspetta proprio di vedere Pompei, Colosseo, cioè le cose antiche, o anche noi dovremmo fare modernizzarci in questo? Non è mica tanto vero, perché dall'Italia si aspettano anche la linea della Ferrari, giusto. Si aspettano anche il meglio della moda, si aspettano il meglio del design. Quindi guardare solo indietro non va bene. Quindi il mercato non ci guarda come una sorta di area delle piramidi d'Egitto con i pelagai camelli. L'Italia è considerata nel campo della produzione privata assolutamente d'avanguardia, ha dovuto rinunciare adesso anche nelle arti, una roba bizzarra, Ma come mai non ci prendo sul serio? Se facciamo l'opera, teatro d'opera, ci prendo sul serio, se facciamo il meglio della moda, ci prendo, adesso c'è anche un po' di concorrenza della moda, però siamo ancora protagonisti dell'arte, che sarebbe la sorella diretta della moda, non contiamo più niente. Allora la domanda uno se deve porre, ma perché siamo incapaci? Io reputo di no, cioè gli italiani sono bravi come gli altri, talvolta anche di più. Ecco, a proposito di bravura, Daverio, quando io vedo i dati, non so, per esempio come quello della Reggia di Caserta, che è salita da 428 a 497 mila, la domanda è questa: c'è anche il merito proprio di chi ha la gestione in quegli anni, oppure è un passaparola, una moda, un qualche cosa di inspiegabile? Guarda, i calcoli che la Reggia di Caserta 10 anni fa faceva il milione. Quindi è scesa, però adesso starebbe un pochino risalendo. Sta un po' riprendendo. Però siamo lontani dai vecchi fasti. Invece il Museo Egizio di Torino ha fatto un'impennata di quasi 200.000 visitatori, arrivando a 757.000. Sì, e lì però si apre un po' un discorso più complicato, perché è diventato una specie di ludoteca. No? Va bene, la gente ha perso molto del suo fascino, perché è più dell'Egitto, è interessante l'egittologia. A noi ci piace sapere tutto dell'esploratore che tornava con la malattia bizzarra, oppure quello che aveva incontrato Agatha Christie. Allora, quel museo lì, che avevano una volta, che era elegantemente polveroso, adesso è stato passato l'aspirapolvere. Ma è una buona notizia, però. Pessima notizia. Pessima notizia per chi? Per il generale, perché, vede, c'è sempre un misto nella museologia fra la roba esposta e il museo stesso. Dai musei dove quello che conta è anche il museo stesso. Se voi andate a Victoria d'Albert, se portassero via tutta la roba da Victoria d'Albert e scomparisse quel sapore vittoriano fantastico, cioè loro sono molto attenti, mettono a posto regolarmente, rinnovano, no? Ma uno va lì e entra nella Belle Époque inglese. E quello è quello che c'è facile. Cioè, il museo non è solo elenco di roba, il museo è storia della cultura che gli sta dietro. se noi spostassimo, se uno andasse a riarredare Villa Borghese, se uno dice adesso gli do una mano di bianco perché lo faccio più moderno, il popolo intero si sorge per scherzare. Certo. Cioè, io non ho capito, ma lei preferirebbe che il Museo Egizio di Torino facesse i 200.000 visitatori in meno come era prima, però diciamo che mantenesse quel fascino, e quindi questi visitatori in più come si spiegano? Per una banalizzazione, per una perché? Guardi, c'è una frase di quel vostro poeta, adesso faccio francese, che si chiama Leopardi, no? Sì, sì. E dice più o meno così: hai si sa poco quando tanti sanno poco. Com'è la frase? Non ho capito. Hai si sa poco quando tanti sanno poco. In questo caso, diciamo, quindi c'è il messaggio che passa è che sì, ci sono visitatori in più, però allora, si banalizza la cultura. Ma allora, scusi, davvero, lei che è sempre stato un fautore invece del guardare avanti, della commistione tra alto e basso, in questo caso non le piace questo, diciamo, l'equilibrio raggiunto a Torino, al Museo Egizio di Torino non le piace? No, il Museo di Torino è un dramma. È proprio un dramma. L'Egizio è stato un colpo al cuore, durissimo. Vabbè, ce ne sono altri che si possono... Sì, ce ne sono anche altri che si possono commentare, No, altri musei invece ci sono stati, per esempio il Museo del Cinema a Torino, sì, è un capolavoro di efficacia. Questo non ce l'ho in elenco, sì, magari c'ha dei risultati, sì, un po' più bassi, non è tra i primi. Pompei quasi 3 milioni con una crescita di 300.000. Pompei è una catastrofe biblica. Ah, sta andando male anche Pompei? No, una catastrofe biblica perché il rapporto che dovrebbe esserci tra il visitatore e questa cosa meravigliosa che Pompei, sì, è un rapporto che viene lasciato così in mano all'ultimo venditore di arancini all'ingresso di Pompei. Viene lasciato in mano a un sistema di custodi che è molto da discutere, sì, e non ha un progetto vero. Cioè, oggettivamente, io di tanto per provocazione, che il biglietto a Pompei dovrebbe costare circa sui 1.000 euro. Cioè, calcolando quanto costa... No, per un altro motivo. Se facevamo pagare 1.000 euro agli esquicoli dei ragazzi delle scuole, dei pensionati italiani, così. Ma il signore che viene da Liverpool o da Bangkok e viene a Pompei paga 1.000 euro perché è come se facesse un viaggio di un mese nei Seychelles. Cioè, come se facesse il giro del Marocco, cioè ti faccio vedere il mondo. Ma certo, se ti faccio vedere il mondo, adesso lo dico ovviamente la provocazione. Però è una provocazione interessante. Però ti faccio vedere il mondo, allora se ti chiedo 1.000 euro per i biglietti, metti le scarpe da Pompei, ti compri una giacca da visita da Pompei e soprattutto accetti anche 3 giorni di preparazione in cui ti faccio vedere che cosa è Pompei, perché se no entri nella roba non capisci niente. Ma quanta gente verrebbe a queste condizioni, secondo lei? Meno ma buoni, pochi ma buoni. Di più di prima. Sì, perché è l'esperienza, perché vendi l'esperienza. È l'esperienza di vita. Cioè, poi è esclusiva, ci metti fuori 2 bottafuori e improvvisamente c'hai la fila. Ma è vero che il sistema Pompei adesso c'è anche... Io sono girato parecchio, sì, dentro, abbiamo fatto dei video, ho lavorato. La gente esce più o meno come molto spesso... come escono le galline dai intestini, sì, quando escono dal treno per andare a viaggiare al mercato del cacca. Però è vero che Pompei deve essere rilanciata, infatti c'è Nicastro che deve fare il grande progetto Pompei, il turismo, l'indotto, però come, e quindi c'è ancora molto da lavorare nonostante tutto, come si spiegano quindi questi 300.000 visitatori in più? Così per un... Ma comunque, perché se ne parla, perché comunque c'è il fascino, cioè c'è una parte della lettura di Pompei è splatter. Una parte è colta, ma la parte è splatter. Col Colosseo a Roma è per 3/4 splatter, con quelli che tirano intorno vestiti da gladiatori di cartone e la scopa in testa. Che ricordiamo che è il primo risultato, perché solamente Colosseo e Foro Romano fanno 6 milioni e mezzo di spettatori, che è incredibile, perché è il 15% del totale. Non si può fare anche il non splatter. Non è vero che c'è un dato che, essendo privato, non viene mai esibito. L'altro museo che supera i 5 milioni di visitatori, qual è? Qual è? Ce lo dica, perché se ci interroga il sabato mattina ci viene subito l'ansia. È il Duomo di Milano. Ah, il Duomo di Milano. È il tetto del Duomo di Milano. Ah, Ma lì bisognerebbe far pagare un biglietto, secondo lei? C'è già il biglietto, c'è già? Certo, c'è l'ascensore, il biglietto. Ah, per andare su con l'ascensore, sì, sì, sì. Sarebbe già crollato il Duomo, cioè il prezzo del biglietto serve alla fabbrica del Duomo. La fabbrica del Duomo, esatto, per mantenerla sempre attiva. Per mantenere, per mettere a posto i pezzi costantemente per la manutenzione. Certo. Però è l'incasso maggiore d'Italia. Va bene. Senta, Daverio, visto che insomma ci ha dato qualche lezioncina, è stato anche un po' critico anche su questi dati, giustamente, che sono buoni, però c'è ancora molto da pedalare. Ci dice invece un bel sito, un museo, qualcosa che ha visto recentemente che lei trova che è proprio dice, andate a vedere quello perché questo perché spacca. Perché è dimenticato. Bravo. Non dimenticati, cioè, beh, non dimenticati, ce n'è un fracco. Allora, per esempio, invece di andare a Pompei, chi va mai a Oplonti? Dove? Oplonti. Oplonti non è in Grecia, eh. Oplonti è a 19 km, 500 metri all'incirca da Pompei. È la villa che probabilmente era la villa di Giulia, o della Fabia, o di una delle parenti che erano imperiali, e sta lì in mezzo alle case tremende di Oplonti vicino a Napoli. Questo sito perfetto è il più indicato di tutti perché è stato scoperto nel 1956-58. Quindi Oplonti. Vabbè. Ce lo segniamo questo perché è un suggerimento di Daverio e ci sta. Andate a vedere nella Vesuviana lì le ville minori. Le ville minori. Esatto, le ville minori che non hanno visitatori. Ad Oplonti ci sono più bravissime persone, ci sono 7-8 custodi che stanno lì, giocano a carte, sono simpatici e i visitatori sono anche loro 7-8 magari, che esagero, ma più o meno un numero basso, il posto è straordinario. Allora, cosa dovrebbe fare? Senta, un ascoltatore ci scrive, ci chiede all'SMS, cosa ne pensa davvero della pubblicità sulle pareti del Duomo di Milano? C'è della pubblicità adesso, non ci avevo fatto caso. Non sempre, talvolta c'è, serve a far cassa. Se la fa a casa va bene, ci può stare. Ci può stare. Una volta era di fronte al Duomo, io non lo so. C'è un po' di dibattito sull'argomento. Ah. Quando è esagerata, quando è troppo. Bisogna che non il troppo stroppia. E qua ci fermiamo. Stroppia però è normale. Grazie. A voi. Grazie mille, buon sabato, buona giornata. Vabbè, insomma, chiacchierare con Filippo Daverio sui dati dei musei italiani è sempre una cosa interessante. Scopri che, insomma, non tutto è oro quello che luccica, ma insomma, noi siamo comunque contenti di questo. No, noi siamo contenti del dato di per sé, perché comunque un aumento è un aumento. Effettivamente, poi leggendo, non sappiamo come prenderli. Ovviamente, come valutare, non sappiamo come prenderli, però leggendo poi i dati è abbastanza incredibile, perché veramente sono i primi 5 siti, ovvero il Colosseo, gli scavi di Pompei, la Galleria degli Uffizi, l'Accademia di Firenze, Castel Sant'Angelo, che praticamente portano a casa tutto. Un terzo, cioè 15 milioni. E leggendolo così hai la sensazione che si potrebbe veramente arrivare a tutt'altri numeri e molto più alti. Come Filippo Daverio ci ha appena spiegato, in realtà è considerato un museo privato, ma solamente il Duomo fa altri 5 milioni di siti, così quanti ce n'è in Italia? Altro che arrivare a 43 milioni in un anno, se arriva a 400 milioni. 800 24 00 24, cari ascoltatori, facciamo una breve pausa, tra poco torniamo, vi aspettiamo e vi ricordo che questa mattina vi stiamo anche chiedendo qual è il sogno che state cercando di realizzare nella vostra vita per avere una vita più soddisfacente, una vita più piena, che non sia necessariamente quello raccontato da Checco Zalone nel film Quo Vado del posto fisso, perché insomma noi abbiamo sentito tante storie qua si può fare di gente che ha aperto agriturismi, vive coltivando fragole o facendo per esempio il sogno di andare in barca, come ci ha chiamato prima un ascoltatore, e noi siamo sicuri che molti giovani, ma anche meno giovani, oggi stanno coltivando e realizzando i loro sogni che non sono il posto fisso. 800 24 00 24. Maria Grazia da Novara, buongiorno e benvenuta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qua, prego. Pronto, buongiorno. Io chiamavo a proposito, sì. A proposito della questione delle mense scolastiche, dei bambini estromessi dal servizio, insomma, sì. Per via delle morosità dei genitori. Io volevo dire questo. Sicuramente ci sono delle famiglie che hanno delle necessità reali e questo i comuni, sicuramente anche insieme alle scuole, possono verificarle. Mi riferisco soprattutto invece ai furbetti. I furbetti, secondo me, al di là della questione squisitamente economica, trasmettono ai loro figli un messaggio assolutamente errato dal punto di vista dell'educazione. I figli che probabilmente ne sono ignari, questo bisogna anche dirlo. Però, ma ecco, non si sa se sono ignari, perché effettivamente tu sai che a casa i soldi ci sono, però tu non paghi la mensa, esatto, e mangi lo stesso. Ecco, certamente. Poi ovviamente un bambino della materna che ha 3, 4, 5 anni è anche un po' al di fuori dei discorsi dei genitori, ma certo, è quello che dicevo io. Poi magari non sanno che i genitori non pagano la mensa, come fanno a saperlo? Lo vengono a sapere forse nel momento in cui... Alle elementari, alle medie, insomma, i bambini sono un po' coinvolti nei discorsi familiari. E sicuramente poi c'è anche la questione un po' dei compagni. No, è vero che, Maria Grazia, è vero che su bambini un po' più grandi può addirittura essere, diciamo, un elemento, quello che lei vuol dire, no? Quasi educativo, cioè una bella lezione. Un elemento educativo, perché non si può pensare che in pratica una istituzione avalli alla fine un comportamento errato. Cioè, praticamente i miei genitori non pagano la mensa, fanno i furbi. Sì. E sostanzialmente la questione... Ma io, se fossi un bambino di 6 anni, la prima cosa che faccio, torno a casa e dico: papà, ti sei comprato l'ultimo iPhone? Oppure, che ne so, mamma, ti sei comprata le scarpe nuove ieri? Pagami sta cavolo di mensa, esatto, no? Non mi far fare queste figure. È che purtroppo questo non avviene. Non è così facile. No, condivido molto, signora, con quello che sta dicendo, anche perché poi è il vero problema di questo paese, che poi si impara che le tasse si pagano molto alte perché non le pagano tutti. Se invece le pagassero tutti, le tasse sarebbero più basse. Bene, grazie Maria Grazia, buona giornata. Andiamo con Carmelo da Catania. Carmelo, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ah, devo dire una cosa, scusi Carmelo, prego. Poi la faccio parlare, che prego, prego. Ci stanno scrivendo per la telefonata con Daverio, qualcuno si lamentava giustamente perché non si sentiva benissimo, purtroppo avete ragione, è ormai andata, ci faremo più attenzione la prossima volta. E invece su Oplonti dicono tutti: è bellissimo, eccezionale, l'ho visto, andatelo a vedere, vicino a Torre Annunziata. E attore del Greco, quindi insomma abbiamo imparato qualcosa. Prego Carmelo. Sì, io volevo parlare di due sogni. Sì. Il primo è il mio come genitore, che vorrebbe rivedere di nuovo sua figlia che è all'estero, ricercatrice presso l'Università di Palermo, però attualmente è stata in Germania ad Hannover e in Zurigo e sta facendo un progetto. Però, scusi un attimo Carmelo, sua figlia è ricercatrice dell'Università di Palermo, inviata all'estero o è proprio andata per conto suo? Lei sta facendo il dottorato all'Università di Palermo, però in contemporanea, però è un dottorato senza borsa. Sì. E quindi la borsa, diciamo, se la prende. Andata a procacciarsela in Germania. È benissimo, in Svizzera, dove sta realizzando un sogno suo, perché lei è architetto, però ha scoperto questa sua sensibilità per i tetti verdi e sta approfondendo sia in Germania che in Svizzera che a Zurigo. I tetti verdi sarebbero, cosa sarebbero? Allora, i tetti verdi, c'è una legislazione in questi paesi, sia in Germania che in Svizzera, sì, che obbligano il recupero del terreno che viene consumato con le costruzioni, per esempio per gli edifici pubblici, commerciali, eccetera. E recuperare il terreno ricostruendo il terreno sopra il tetto. Ah, e bellissimo. Tetti verdi. Mi sa che ne abbiamo parlato anche noi qualche volta di questa cosa. Sì, sì, qualcosa, sì. È una versione più light del bosco verticale, verticale di Boeri, direi. Ma perché lui su ogni piano rifà un pezzo di terreno. Però, Carmelo, se ho capito bene, in questo caso i due sogni divergono: il suo, che vorrebbe che sua figlia tornasse in Sicilia, e sua figlia, che invece sta andando a studiare questi tetti verdi, che essendo, diciamo. No, ma lei vuole tornare, il suo sogno è di ritornare qua in Italia. In modo che ci sia una legislazione. Ho capito, però se deve studiare i tetti verdi stanno in Danimarca. Per portare i tetti verdi in Italia vuole, giusto? Benissimo, il suo sogno è questo. Oh, certo. Ok, quindi il sogno potrebbe convergere in qualche modo col benissimo suo, dopo una parentesi all'estero. Perché... No, ma sa perché dico questo? Scusi Carmelo, perché questo fatto della fuga di cervelli, a volte secondo me viene data in maniera un po' semplicistica, tutti quelli che vanno all'estero come fuga di cervelli e è la fuga dei pollici verdi questa. No, dei pollici verdi.

formazione personale. Noi abbiamo fatto dei corsi proprio per vi ha un po' inquadrato sì, insomma, non siete andati allo sbaraglio, quindi ringraziamo anche Alessandro che vi ha dato una mano e magari è a disposizione anche per altri che certo, fare la consulenza. Ma sono già in commercio queste marmellate? Giusto, sì ragazzi, noi facciamo come noi si chiamano? Areste. Come noi. Areste. Siamo 4 anni che facciamo la fiera dell'artigianato a Milano. Prima di sbilanciarmi voglio assaggiarla però, quindi non voglio dire buonissima la marmellata di Daniela. No, però io vengo in Sardegna ad assaggiarla, poi non a Milano. Allora, io vorrei che voi veniste in Sardegna perché veramente merita. Abbiamo 4 asinelli, che tra l'altro il primo asinello ce l'hanno regalato al matrimonio. E poi sono come regalo di matrimonio un asinello è semplicemente strepitoso. Daniela, assomiglia sempre di più a una favola, però è veramente una bellissima storia. Facciamo così, siccome ogni volta che riparti il discorso ci aggiungi dei particolari nuovi e molto interessanti, tipo l'asinello regalato nel giorno delle vostre nozze dagli amici, allora ci risentiamo e così ci racconti come sta andando avanti la vostra avventura e continui a incuriosirci. Ciao Daniela, ciao, grazie ragazzi, ciao, buona giornata, buona giornata, ciao. Grazie. Non cadrà mai. Vabbè, è una di quelle classifiche, no, che ogni tanto escono, ma questa è una di quelle più importanti perché misura il gradimento dei sindaci. È una classifica che la propone il Sole 24 Ore con un sondaggio di PR Marketing e quest'anno in cima alla classifica dei sindaci più graditi, forse diciamo dalla musica avrete capito che siamo in quella zona lì, in che zona in siamo? In Puglia. In Puglia. Vado a ballare in Puglia e questo è il sindaco della città di Lecce, meravigliosa città di Lecce, Paolo Perrone. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Io ho fatto la premessa perché ora con tutto naturalmente l'amore per il Sole 24 Ore e il rispetto per questi sondaggi, poi si sa che queste classifiche sono anche un po' così da prendere con le pinze. Però non credo che sia il primo anno che lei è in altissima classifica, o no, sbaglio? No. Allora, guardi, devo dire che anche per me queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Non mi sono esaltato, non mi esalto adesso, negli ultimi anni dove... Beh, però insomma, un po' qualche centimetrino sopra il suolo camminerà lei, via. Come non mi abbattevo quando all'inizio del mio primo mandato mi vedevano in fondo. Dov'è? Era in fondo lei? Quindi ha rovesciato i pronostici. Lei è come il Sassuolo? Sì, è stata una lunga rincorsa. Diciamo. Ah, bello questo. Ah. Poi siamo tutti appassionati di talent, quindi questo qui è il talent dei sindaci. Allora non mi abbattevo, oggi non mi esalto. Ma c'è stato qualcosa che secondo bella, lei... La cosa bella, sapete qual è? Che qual è? Per i miei avversari, sì, adesso queste classifiche non valgono un tubo, prima allora valevano, prima erano indicative indicative del reale gradimento della cittadinanza. Certo, ma adesso ci sarà Master Sindaco e che si farà in televisione e quindi sarà perfetto. E certo, è inutile dirvi che comunque un po' di soddisfazione, pochissime soddisfazioni i sindaci le hanno, proprio molto poche. Tra l'altro voglio dire una cosa, mi faccia dire una cosa, scusi, perché sennò poi dice che parliamo solo del PEN, il secondo in classifica è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che ha avuto un sacco di pubblicità sulla questione dei libri, esatto, vietati, è colui che ha vietato lì, però va anche detto che lui ha fatto un passo indietro e i libri li ha tutti riammessi tranne uno. La polemica con Elton John, che forse gli ha portato anche un po' di notorietà. Terzo in classifica Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che è un esponente di primo piano del Partito Democratico, quindi devo dire che lei, Perrone, è un po' uno sconosciuto, quindi evidentemente qualcosa deve aver combinato a Lecce. C'è stato qualche cosa che secondo lei ha fatto scattare questo aumento di gradimento nei cittadini di Lecce? Un Guardi, provvedimento? La vera, il vero elemento di particolare di questa classifica è che se lei vede scorre la classifica, i primi 20, eccetto il sottoscritto, sono tutti sindaci al primo mandato, cioè tutta gente che ha appena iniziato. Come dire, molto spesso c'è una sorta di luna di miele, no? Tra sì. l'elettorato e il nuovo eletto. Io faccio il sindaco da 9 anni, per cui per i fondelli i miei concittadini non li posso prendere con vale, finte diciamo. Promesse. No, no, è vero, è vero. O con slogan. Ma quindi con cosa li ha convinti, secondo lei? Che idea si è fatta? Passiamo alla parte seria dell'intervista. Io ho cercato di improntare la mia attività. Bello, che fa tutto da solo il sindaco, eh? Dici prima la parte scherzosa e poi la parte no, seria. Perché stavamo ridendo. Sì. È giusto, no, è no, tutto giusto. Prego, no, prego, prego. Vada, vada. La gente e l'opinione pubblica è molto meno stupida di come noi immaginiamo, è molto attenta. Quindi bisogna affrontare i problemi Condivido. Con trasparenza e serietà, anche quando bisogna dir loro no, purtroppo. Quindi la sua è la serietà, la sua chiave è la serietà? La mia chiave è, credo, la trasparenza, nel senso, quando ho potuto dire sì e ho fatto delle promesse, ho cercato di mantenerle. Le volte dolorose che ho dovuto dire no, ho detto no e ho spiegato perché no. Per esempio, lei quando ha dovuto dire no, un no grande che ha dovuto dire, facciamo un esempio, se lei si può. Sa cosa vuol dire quando viene qualcuno che dorme in una macchina e tu gli devi spiegare che non puoi assegnargli una casa perché non è in graduatoria e quindi sarà costretto a dormire in macchina ancora per qualche Ma giorno. Lo fa direttamente il sindaco questo? Lo fa in una piccola città come la nostra, lo fa il sindaco, guardando negli occhi le persone. E le assicuro che è una mortificazione straordinaria. Ci tengo a sottolineare che è piccola, ma non piccolissima, perché stiamo parlando di Lecce, quindi lei è il sindaco di Lecce ed è mi sembra un vanto in più il fatto di essere il sindaco di una città tutt'altro che piccola, ecco. 93.000 abitanti. Qui insomma lei dice diciamo saper dire no, sempre. Saper dire no a volte può essere doloroso sul momento, molto ma alla lunga... Diciamo in una fase nella quale aumenta il bisogno della propria comunità e diminuiscono le possibilità che si hanno per fronteggiare questo bisogno dilagante. Però quindi lei non ha realizzato, che ne so, grandi opere a Lecce, ponte, una Lei da quanto tempo non viene a Lecce, mi scusi? Mai stato, no. Purtroppo. Ma male, io ci sono stato ben più volte, come si dice male. E se venissi a Lecce che cosa potrei ammirare? Lei ammirerebbe città più belle d'Italia, certamente con un centro storico straordinario, tutto recuperato in questi anni. Momento prologo del sindaco, certo. Esatto, è una città che fino a qualche anno fa era difficilmente collocabile. Io ho studiato a Milano 20 anni fa. Dobbiamo chiudere, mi dispiace. E mi dicevano di dove sei, di Lecce, non sapevo nemmeno dove fossi. Adesso invece sì, che tutti conoscono. Dobbiamo chiudere. Grazie Perrone, giornata. Comunque complimenti. Ci risentiamo domani, cari ascoltatori, con Si può fare alle 8.30 fino alle 10. Grazie a Claudio Schiattone, Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Carmelo Licella in regia. Un grande abbraccio a tutti, ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, buon sabato. E a chi ci ascolta in podcast.